piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Nel momento in cui avremo, valutando quello che succederà e quindi la curva epidemiologica nei prossimi giorni, in queste due settimane, noi inizieremo ovviamente a valutare ed abbracciare anche la prospettiva di entrare nella fase 2. La fase 2 è quella di convivenza col virus, di adottare delle misure, diciamo, che pian piano portano all'allentamento, per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. La nuova parola di passo in questi giorni è fase 2. Diciamo che se ne parla da qualche tempo, ma oggi viene messa come punto di possibile arrivo, tappa importante per restituire per quanto possibile la serenità. La fase 2 è quella in cui si allentano alcune misure di distanziamento, di sicurezza, per permettere ad alcune attività di riprendere. È una fase che tutti aspettiamo. Vedo che ci sono parecchi studi in proposito, in particolare il Fatto Quotidiano ne riprende uno dalla prestigiosissima Università di Harvard, che parla di strategie possibili. Solo che questa mattina io vorrei evitare di sentire l'ennesimo esperto in epidemie, epidemiologo, che ci fa delle supposizioni, delle ipotesi, perché mi sembra di aver capito che se vogliamo seguire, come abbiamo già detto, quello che è il passo della scienza, la scienza non permette che ogni giorno si dia una novità, ogni giorno ci sia una soluzione. Volevo invece scandagliare quello che è il sentire delle persone che stanno in questo momento davanti alla radio, che posso chiamare all'800240024. Ecco, arriverà un momento in cui, in maniera presumibile, le persone potranno in qualche maniera uscire un po' di più da casa, sempre mantenendo comunque le necessarie precauzioni, perché sappiamo che il distanziamento sociale al momento è la forma migliore per arginare l'invasione del virus. Questo farà saltare di gioia molte persone, visto che anche in questa fase di maggiore restrizione ancora l'indisciplina è alta. Si leggono le cronache della fine settimana, la gente tenta di andare alle seconde case, le persone ancora per strada vengono fermate e bloccate. Io stesso mi capita di vedere, buttando la spazzatura la domenica, i podisti che corrono affannati uno vicino all'altro, i fidanzati per la mano. Insomma, la mia impressione è che ancora generalmente sia questo senso, che esista uno stato despota, cattivo, che in maniera insensata ci obbliga a un isolamento sociale che per noi deleterio, non ce la facciamo più, che non sarebbe necessario. Tutti mi scrivono: ma ci sono tanti spazi vuoti, che male faccio se corro nel parco che non c'è nessuno, che male faccio se vado per strada che tanto non c'è nessuno, che male faccio se vado nella mia casa al mare tanto non c'è nessuno. E il tanto non c'è nessuno non tiene conto del fatto che non c'è nessuno, perché le altre persone tengono conto di quelle che sono le norme di sicurezza. Se tutti facessero questo discorso, saremmo riversati per strada e ci continueremo a contagiare in maniera massiccia. Ma voi siete pronti alla cosiddetta fase B? Guarda che la fase B non sarà si aprono i recinti e tutto torna come prima. Mi sembra di capire dalle informazioni che abbiamo tutti a disposizione che si comincerà gradualmente in condizioni di massima sicurezza a permettere alcune attività produttive, commerciali, di operare. Se non c'è gente che raccoglie i pomodori, cosa ci mangiamo? Se tutte le industrie sono ferme, bloccate, quando magari in altri paesi stanno lavorando, vuol dire che hanno condizioni di sicurezza efficienti, non possiamo assolutamente pensare di poter andare avanti in questa maniera. Però l'impegno individuale sarà senz'altro maggiore, perché non è che potremmo continuare a fare quello che facevamo 3 mesi fa. Non è che improvvisamente nella fase B si esce, si vanno a trovare i fidanzati, le fidanzate, e gli amanti che sono stati trascurati per mesi, e si va a abbracciare i vecchi genitori, i bambini vanno a scorazzare nei parchi felici, giocano fra di loro, fanno girotondi e garuli giochi di gruppo, il calcio riprende, tutti vanno a giocare a pallone, a calcetto, insomma tutto riprende come prima. No, sarà una fase paradossalmente molto più basata sulla responsabilità individuale. perché non è che potremmo usare polizia, carabinieri, finanza, esercito per sorvegliare le persone che fanno la passeggiatina o con la scusa del cane continuano ad andarsene in giro o vanno al supermercato tutta la famiglia, cosa che ho visto fino a venerdì, nonostante che su questo dato ne avessimo parlato già da un mese. 800240024, intanto ringrazio Andrea Roccabella e Alessandro Marco Tulli che sono a Milano, Alessandro Chiappini che è da Roma, Fabrizio Entonti che anche lui a casa sua a Roma, per questa trasmissione dedicata a come vedete e come pensate di affrontare la cosiddetta fase B. Quale sarà il vostro comportamento e come vi atteggerete di fronte al ritorno della vita sociale, quindi anche dell'avvicinamento anziché di isolamento sociale, no? Come pensate di poter gestire questa fase 2? Sarete ligi nel rispettarla? Oppure sapete già che è probabile che poi ve ne dimenticherete, no? Magari vedendo una cara amica, un caro amico, un parente, un proprio genitore, un fratello, una sorella, un nipote, vi lascerete andare ad abbracci. Cosa farete? Manterrete i 2 metri di distanza fatidici, non solo al supermercato, al lavoro, ma proprio tra i vostri cari, con i vostri cari? Questa giusta domanda viene fatta dal canale YouTube La Pink Seduction. Esattamente, vi rendete conto che non è che si abbasserà il livello di guardia di sicurezza, saranno permesse alcune attività che magari oggi non sono più permesse, ma in condizioni di sicurezza, quando ci saranno le condizioni di sicurezza. E ve la sentite di continuare a affrontare questa emergenza basandovi molto di più sul vostro senso di responsabilità? Sono problemi, non è facile dare lezioni, me ne rendo conto. Io sono un isterico da supermercato, vado al supermercato e quando vedo le persone che vanno a raccattare i peperoni nello stesso momento che li raccatto io mi stanno addosso, li tratto male. Ho fatto una scena bestiale a una signora, non resistendo, al 10° filoncino di pane che prendeva, tastava, soppesava, guardava l'etichetta, rimetteva nel mucchio, e ho detto: signora, perché tocca il pane di tutti? E dice: ma c'ho i guanti. Ecco, a quella risposta viene a capire che ancora non tutta l'umanità, dal mio piccola esperienza personale, è pronta ad affrontare con maggior responsabilità questa fase. Quindi 800240024, come pensate di affrontare la fase B, che sarà molto di più affidata al vostro senso di responsabilità individuale? Intanto presento il primo ospite, il professor Gilberto Corbellini, buongiorno. Buongiorno. Professor Corbellini è un filosofo della scienza, docente di storia della medicina presso l'Università La Sapienza e dirigente del CNR. Il professor Corbellini è uno studioso di tutto quello che è stato nel passato il senso comune, la responsabilità comune, le direttive centrali da parte delle istituzioni rispetto a delle epidemie. Mi sembra, professor Corbellini, che però ci troviamo di fronte a una fattispecie molto originale. Quali sono i punti di contatto? Parliamo delle più recenti, l'epidemia spagnola del 17-18. Ecco, allora c'erano gli stessi problemi che ci troviamo ad affrontare oggi, e considerata anche la mutazione dei tempi, dei sistemi di comunicazione, o oggi c'è qualcosa in più di diverso, su cui ancora non esiste letteratura per dare indicazioni su come affrontarlo? No, è abbastanza diverso, insomma alcune cose si possono paragonare, ma in un certo punto si può paragonare appunto l'applicazione di quelle cosiddette norme non farmacologiche come il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, eccetera, la chiusura, la durata delle chiusure che sono state fatte, eccetera, ma diciamo, i virus sono comunque differenti, le caratteristiche di questo virus sono tali per cui come dire, appunto colpisce fasce di popolazione diverse, poi soprattutto noi abbiamo un sistema sanitario, delle conoscenze, delle tecnologie che non c'erano nel 1918, paradossalmente è tragico dirlo, ma il fatto che non avessero terapie intensive e che non potessero adottare certe misure non gli poneva neanche il problema di concentrare i malati negli ospedali e quindi far diventare gli ospedali un centro, diciamo, di diffusione del virus. Insomma, è una cosa. Chi se lo prendeva moriva, fine, così esatto, funzionava. Esatto, chi se lo prendeva moriva, e tra l'altro chi moriva era giovane, quindi mentre noi oggi vediamo morire persone anziane, a quel tempo si vedeva morire persone giovani, il che spaventava ancora di più la società. Altra cosa, la società è molto cambiata in questa frazione di secolo che è passata, e quindi noi eravamo abituati anche a una vita diversa, una socialità diversa, relazioni diverse. Certo. Allora l'istituto era abbastanza, perlomeno l'apparenza, ferreo dell'organizzazione, dell'idea della famiglia. Si era comunque appena, si stava nel pieno di una guerra che aveva già dato l'idea di qualche emergenza. Certo. Noi improvvisamente questa cosa ci è caduta come un fulmine a ciel sereno. Pensavamo all'immortalità, alla felicità, e ci turbavamo se non potevamo fare la terza vacanza durante l'anno. Esatto, ma esattamente questo, a mio parere, l'aspetto, al di là, diciamo, dell'impatto sanitario, l'aspetto psicologico di tutta la questione. Non dimentichiamoci, insomma, che nella storia delle epidemie, delle pandemie, le sommosse sociali in relazione alle quarantene, quindi insomma alle chiusure, sono state la regola. Insomma, poi alla fine noi possiamo, certo, per carità, dobbiamo richiamare alla responsabilità le persone, ma quando l'adrenalina, gli ormoni dello stress, eccetera, cominciano ad andare in circolo, non è che c'è la volontà delle persone a tenerli sotto controllo. Insomma, poi le persone perdono facilmente il controllo, e questo io penso che sia l'aspetto, insieme all'impatto economico, quindi proprio un effetto collaterale della pandemia, che alcuni neurotrasmettitori, alcune maniere che abbiamo noi di gestire lo stress a un certo punto facciano tilt, e c'è una sorta di impazzimento generale. Questo poi potrebbe essere, carità, uno dei rischi. Per carità, poi chi vive in un attico con 150 metri di terrazzo, la banda larga che funziona perfettamente, eccetera, non avrà questi problemi, ma chi vive in periferia, in 60 metri quadrati, in quattro, magari senza il computer e un solo telefono e non un solo smartphone, insomma, non è che ce la, cioè, che riuscirà a reggere facilmente. Insomma, noi quando vediamo le persone che si scappano fuori, cercano di andare, ma domandiamoci anche in quali condizioni vivono quando sono recluse. Insomma, noi stiamo chiedendo un po' troppo alla psicologia delle persone per quanto riguarda poi la loro capacità effettivamente di far fronte al disagio psicologico, che poi avrà come sbocco un disagio mentale grave. Ecco, le faccio una domanda, mi viene in mente adesso, professore, ma quanto conta e pesa, e quanto questo rappresenta un dato originale, il confronto sociale che oggi si fa per il fatto che ognuno di noi ha una telecamera accesa sulla propria vita? Fino a 3 mesi fa ci vantavamo della nostra raffinatezza nell'arredare casa, dei nostri begli abiti, dei nostri tagli di capelli, di quello che mangiavamo di buono. Insomma, ognuno di noi ostentava un tenore di vita che sicuramente era fittizio, superiore o esagerato rispetto a quello effettivo, perché faceva parte del grande gioco della rappresentazione social. Ecco, quanto questo oggi invece rappresenta un problema, una sorta di profonda, comprensibile invidia sociale che sta nascendo da parte di chi sta nelle condizioni che lei diceva. Ma guardi, io non lo so, io penso che comunque le persone che potevano, diciamo, permettersi, soprattutto in Italia, poi insomma, che in Italia c'è un tasso di povertà abbastanza alto, insomma, non fossero tantissime, però io ritengo che, insomma, alla fine forse questa enorme quantità di informazione, questa distanziamento, noi abbiamo un distanziamento fisico, io vorrei dire che anche questa espressione di distanziamento sociale è impropria, noi abbiamo un distanziamento fisico, non abbiamo un distanziamento sociale perché le persone si telefonano, perché le persone si parlano da una finestra all'altra, perché comunque insomma c'è, diciamo, ci sono delle telecamere attraverso cui facciamo una quantità enorme, insomma io passo le giornate a fare riunioni su Meet piuttosto che con Meeting o cose di questo genere. Io penso che questo sia, forse, non lo so, perché poi sa fare previsioni in queste cose, insomma, se si fa prima a leggere il volo degli uccelli, insomma, che non Però è un terreno interessante, professore, di analisi e di studio. La molto, società molto, che ormai sembrava collegata, ha raggiunto un sistema di condivisione, la cosiddetta molto, società liquida di cui abbiamo tanto parlato, su cui tanto siamo stracciati le vesti, però sta dimostrando che nonostante la possibilità di connessione, come diceva il buon vecchio Bauman, non corrisponde alla necessità di relazione, perché le connessioni le abbiamo tutte. In teoria ha ragione lei, non c'è distanziamento sociale, vediamo tutti e parliamo con tutti. Ci manca proprio il contatto, ecco, fisico con le persone. Ecco. E questo è un problema, capisce? Perché, come lei sa, insomma, da almeno 30 anni, almeno 20, diciamo, sappiamo che il contatto fisico è quella cosa che ci scatena il rilascio di ossitocina e costruisce la fiducia sociale. Quindi il contatto fisico nei primati, inclusa la specie umana, è un elemento fondamentale per la socialità. Noi togliamo il contatto fisico, diciamo, mettiamo dei presupposti che sono davvero pericolosi rispetto, diciamo, proprio all'elemento, al cemento delle nostre società moderne, che è la fiducia. Quindi fra le misure di tipo sanitario, dico proprio usando il termine crudo se vogliamo, che andranno messe in atto, a un certo punto bisogna permettere alle persone di avere, in forma, non so dire in che maniera, non so dire attraverso sistemi di estrema sicurezza, attraverso, che ne so, diaframmi di sicurezza, anche contatti fisici. Sarà importante come la mascherina, dici io una volta al mese voglio vedere una persona e starci assieme, sentire la pelle, non so come, ma per paradosso deve essere così. Ma è assolutamente così, cioè adesso, ora, io non lo so, però se io avessi la prova, e quella si può avere, insomma, che ho gli anticorpi e la persona, insomma, con cui condivido la vita altrettanto, insomma, nella mia condizione, e non rischiamo di contagiarci l'uno con l'altro, ma voglio, non c'è nessuna ragione per cui in casa mia io non debba avere contatto fisico con questa persona. Cioè, fuori è chiaro, siccome io non ho idea di con chi ho a che fare, che poi è questo elemento curioso, capisci, perché noi ci siamo evoluti proprio per avere paura che l'estraneo sia portatore di un qualche rischio che può anche essere, diciamo, la malattia, e quindi alimentare, diciamo, questa euristica del contagio. Ma cioè, sì, va fatto, perché per carità noi dobbiamo queste cose fare, però io ho l'impressione, diciamo, che la comunità scientifica, gli esperti, quelli che parlano di queste cose, come se parlassero di automi, non di persone umane. Cioè, come quelli, sa, sì, noi questi li chiudiamoli dentro per 6 mesi e quelli poi, tra figurati, li porto da mangiare, quelli stanno tranquilli. Stiamo scherzando? Cioè, qui abbiamo secondo me farà la sua fortuna chi in questo sistema, in questa situazione, metterà a punto un modello di possibilità di trasporto in sicurezza di persone che si vogliono incontrare. Io immagino, sto inventando adesso, una sorta di camper che va a prendere la persona, la mette in una situazione corretta, si prendono tutte le precauzioni, come, non voglio ridurla crudemente a un incontro fisico, ma tanta gente, mica tutti hanno il compagno o la compagna dentro casa, e quelli cosa fanno? Mica tutti possono vedere i genitori soltanto a distanza. Stantino ha parlato un collega, dice io mi piacerebbe abbracciare i miei genitori, ma non so se posso farlo. Creare delle condizioni di separata e controllata capacità e possibilità di incontrarsi. Beh, questo è un bel tema, ci fermiamo un istante e riprendiamo tra un istante. Melog. I nostri cellulari registrano tutte le informazioni necessarie e ancora di più. E allora perché non utilizzarli anche in questo momento di massima emergenza per limitare la diffusione del coronavirus? Partendo da questa idea, la WebTech, società di comunicazione di Sondrio, fondata da Emanuele Piasini, ha realizzato un'app dal titolo Stop Covid-19, pronta per aiutare le autorità pubbliche a ricostruire i movimenti e i contatti di una persona contagiata. L'applicazione Stop Covid-19 non traccia le persone, ma traccia solamente i contatti tra le persone, e solamente le autorità competenti sono in grado di vedere questi tracciamenti. È gratuita e consente di ricostruire le frequentazioni di una persona che sia risultata contagiata. In tal modo sarebbe possibile avvisare chiunque sia venuto a contatto con l'invito a mettersi 800 24 00 24. Questo era un servizio del TGCOM del 26 marzo che parla delle app di tracciamento. c'eravamo di fronte a un bel paradosso divertente, devo dire. Da una parte col professor Cobellini stiamo mettendo a punto così in maniera estemporanea l'idea che fra i presidi di prima necessità che dovrebbero essere elargiti ai cittadini c'è anche quello del diritto allo scambio di contatto fisico, naturalmente in condizioni di sicurezza. Cosa pensiamo? Il camper dell'amore o il camper dell'abbraccio al genitore o il camper in cui le persone possono riavere un contatto fisico passando attraverso un percorso di sterilizzazione, di messa in sicurezza, di verifica e via dicendo, finalmente possano starsene un po' insieme come una sorta di ora di congiungimento familiare per i carcerati. Sembra una cosa paradossale, la gente rabbrividirà e dirà che schifo, cosa facciamo? Il casino per il coronavirus? No, non tutti hanno la fortuna o sfortuna di aver sempre sotto mano tutte le persone con cui vogliono stare anche in contatto fisico. Il contatto fisico, come ci dice il professor Corbellini, è una sorta di ammortizzatore di serenità sociale. Se manca quello, la gente sbarella. Sentiamo intanto Giuseppe da Taranto, poi passiamo alla seconda parte del paradosso, che in questo in cui tutti cerchiamo un contatto fisico si acuisce l'idea che l'accentuare il contatto indiretto per vie telematiche possa aiutarci. Intanto sentiamo Giuseppe, che è in ascolto da tanto. Giuseppe da Taranto, l'ascolto. Giuseppe? Sì, mi sente Gianluca? Sì, l'ascolto, sì. Le auguravo buongiorno prima di tutto. Facevo una considerazione. Mi sembra che il professor Corbellini parta da una considerazione giustissima. Possiamo riprendere da Aristotele, uomo animale sociale per eccellenza. Quindi sì, andiamo alla domanda, al punto, però non ci serve un'aggiunta. Il punto è questo, Gianluca. Aprire alla fase 2, dimezzando oppure riducendo le misure di restrizione che attualmente sono in vigore, secondo me temo che potrà rischiare di farci ritornare indietro. Già si parla di persone guarite e che sono ritornate ad essere contagiate. C'è poco buonsenso da parte degli italiani, sono migliaia ancora le persone sanzionate per essere in giro senza avere un motivo che ne giustifichi la cosa. Quindi dovremo convivere ancora a lungo e confidare veramente nel buon senso e nell'intelligenza. Qui è in gioco la vita, caro Gianluca. Guardi Giuseppe, lo studio che ho citato all'inizio dell'Università di Harvard dice esattamente questo. Anche laddove, fanno tutto l'esempio della Cina, anche se il distanziamento fisico dei cinesi è inapplicabile alle nostre parti, perché figuriamoci, ci sentiamo già in una sorta di lager semplicemente perché ci dicono state a un metro di distanza, andate a fare la spesa, pigliatevi 5 minuti d'aria, già sembra che è una cosa, che è un sopruso. Beh, hanno dovuto riportare le condizioni laddove avevano rallentato allo stato, diciamo, primario. Perché? Perché, come abbiamo detto all'inizio, il professor Corbellini, ancora è troppo poco il tempo per cui la comunità scientifica ha potuto capire con cosa abbiamo a che fare, e non possiamo ogni giorno darvi informazioni, dire oggi c'è questa novità, c'è questo farmaco, si è capito questo. Dobbiamo dare per assurdo che abbiamo davanti un nemico di cui non conosciamo esattamente qual è l'arma segreta. Però volevo tornare all'argomento di prima. Andrea Rossetti, buongiorno. Ricordo Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica all'Università Bicocca di Milano. Ecco, noi si è parlato per qualche giorno, ci siamo anche sentiti noi in diretta, poi non se n'è più parlato, di questi sistemi digitali che dovrebbero aiutare attraverso il tracciamento delle persone a in qualche maniera a contenere l'epidemia. Poi a un certo punto non se n'è parlato più. Qual è il punto rispetto a quello che ci eravamo detti? Perché noi stiamo vedendo che la socializzazione digitale non ci basta, è inutile, abbiamo fatto un passo avanti ma ci siamo lasciati qualcosa dietro le spalle, non ce ne rendevamo conto. Altresì siamo tutti pronti in questo momento, gran parte di noi sono pronti a rinunciare anche a quella propria privatezza, pertanto tutti dicono stiamo in casa, non facciamo niente, che ci importa, tracciateci se questo serve a accelerare il momento in cui torniamo ad abbracciarci. Ecco, qual è il punto da quel punto di vista invece? dall'ultima volta che ci siamo visti, era appena partito il bando. Sentiti. Sì, visti, sentiti. No, perché io ti guardo anche alla televisione, ti guardo qui. L'ultima volta che ci siamo sentiti, era appena uscito il bando a cui hanno risposto 287 o comunque circa 300 entità proponendo app che tracciano variamente. Mercoledì o giovedì scorso è stata nominata dal ministro la commissione composta da più di 70 persone per valutare questi progetti, e si dice, perché in realtà effettivamente dopo la nomina della commissione un po' tutte le notizie sono scomparse, si dice che questa commissione dovrebbe entro la fine di questa settimana indicare quali sono le tre app candidate a diventare l'app che verrà adottata dal governo. Quello che si sa appunto è che la tendenza sono due, cioè tracciamento tramite GPS e tracciamento tramite Bluetooth, però bisogna vedere, insomma, ecco, in realtà non si sa nulla di questa commissione molto grossa, molto molto ampia come numero, che è stata nominata al ministro. I lavori sono veramente molto molto riservati. Ma i nomi si sanno dalla commissione? Sì, sì, certo, tutti e 74, sì, però sono 74 addirittura. Sì, sono 74, però si trovano davanti e ricoprono un po' tutti gli ambiti, cioè ci sono chi studia l'impatto economico, chi studia l'impatto più informatico, insomma, è una commissione molto composta da persone che vengono dagli ambiti anche più variegati, tutte con un buon curriculum per quello che ho visto io, perché francamente non ho guardato il curriculum di 74 persone, che sono veramente molte, e che comunque devono appunto esaminare quasi 300 app prima di decidere quali saranno. Andrea, questo a me sarà, qual è il punto, l'obiettivo che ci si pone, perché l'ennesima app, avendone già tonnellate nel nostro telefono, prevede secondo me tutto un protocollo, innanzitutto di obbligo di installarla nel telefono, sennò è inutile averla, cosa fa? E te lo dico al giurista, da oggi è obbligatorio tutti avere questa app e dimostrare che è attiva, cioè se mi fermano i vigili per strada per vedere se ho la documentazione, mi guardano anche il telefono per vedere se ho l'app? Credo che dal punto di vista giuridico questo sia l'aspetto più delicato. Altri paesi europei hanno adottato la politica, che credo alla fine adotteremo anche noi, della volontarietà, cioè l'app l'installa chi la vuole. È chiaro che un'app di questo genere ha effettivamente efficacia unicamente la misura in cui viene adottata da una grande percentuale della popolazione, perché era una sorta anche qui di immunità di gregge, no? Qui non, nessuno che io abbia visto ancora ha fatto i conti, ma stamattina parlavo con un ingegnere che si occupa di queste cose e lui mi diceva che per essere efficace, secondo lui, l'app dovrebbe essere adottata almeno dal 90% delle persone. 90% ma tu lo vedi plausibile? Bisognerebbe dire che se carichi questa app, che ne so, vinci soldi alla lotteria, perché solo il fatto che sia obbligatorio, anche se noi abbiamo di tutto nel telefono, non ci siamo mai posti il problema della tracciabilità. Guarda, inventarsi un meccanismo premiale è effettivamente quello a cui stanno pensando alcuni, non so in questa commissione, insomma, ma io in realtà con l'invitato dell'altra volta, la trasmissione che ho invitato l'altra volta, Alessandro Bogliolo, stiamo pensando a soluzioni che forniscano, che siano anche premiali in qualche maniera, no? Che diano dei buoni sconto, che gestiscano queste cose qui. Ovviamente sempre con la massima attenzione, perché qui si ha un passo, no, dal controllo sociale su tutte le nostre attività, cosa che a me fa sempre abbastanza paura, insomma, perché poi questi dati rimarranno oltre l'emergenza e bisognerà capire che uso se ne farà, insomma, chi li userà. Ecco, però, professor Corbellini, che ci ha ascoltato, si rende conto che abbiamo messo insieme due elementi che in sé generano un mostro. Primo, la gestione pubblica per motivi d'emergenza della relazione, del contatto diretto fra le persone, la gestione pubblica di un'app che dovrebbe comunque tenere sotto controllo ogni nostra azione. Ci sarà soltanto spazio per tutto ciò che può essere considerato secondo regole etiche, morali, sociali, religiose, che non voglio nemmeno immaginare e definire, lecito e possibile. Per il resto non ci sarà più spazio. Il problema non sia la tecnologia, ma il contesto in cui la tecnologia è applicata. Noi sappiamo che l'uso di queste app, per esempio a Singapore, portò al fatto che le persone positive si trovarono, come dire, buttate sui giornali o comunque sia in rete pochi giorni dopo, perché Singapore comunque è un sistema totalitario dove non ne frega assolutamente niente della riservatezza delle persone, e quindi capisce, questi strumenti sono da sempre, risultano da sempre, diciamo, chiaramente utilizzabili in contesti strategico potrebbe essere la Cina per controllare e comunque sia reprimere lo spostamento, il movimento, l'intercettazione e quindi intercettare le persone limitando ulteriormente la libertà. I sistemi più democratici, liberali, noi ci siamo comunque in questi anni, io insegno anche bioetica alla Sapienza, quindi sono discuto spesso con gli studenti tutti i problemi della riservatezza dei dati in ambito genetico, eccetera, e la mia tesi di solito è che ci siamo, diciamo, come dire, eccessivamente, come dire, abbiamo un po' troppo anche enfatizzato il tema della privacy senza sapere bene che cosa significa da un punto di vista della percezione psicologica delle persone. Quindi, per chiudere, io dico: ben vengano queste app, fate tutto quello che volete, vi do tutte le informazioni che volete, purché mi lasciate libero e soprattutto mantenete, diciamo, il sistema e la regolamentazione del funzionamento legislativo in un quadro di tipo liberale, e soprattutto fate funzionare efficacemente lo Stato di diritto. Se dobbiamo fare questo sacrificio per bloccare questa pandemia, lo facciamo, ma non è che possiamo perdere per bloccare questa pandemia anche tutto il resto, no? Mi sembra comunque, rispetto, se fossimo ad osservare un film, una serie di fantascienza, sarebbe interessante vedere come va avanti, ma siccome la stiamo vivendo sulla nostra pelle tutti in questo momento, ci rendiamo conto, ci troviamo davanti a una trasformazione, una fase così veloce del nostro cammino evolutivo che non avevamo immaginato che potesse essere legata agli strumenti digitali di conoscenza e di relazione che pensavamo ci avessero aperto dal punto di vista dell'espansione sociale, delle relazioni, via dicendo. Oggi rendiamo conto che sono un po' anche il nostro cappio, perché le due cose messe assieme, il bisogno residuo di sano, antico, animale, contatto fisico con le persone, il bisogno sanitario del controllo e del tracciamento messi insieme fanno qualcosa di terribile, di limitativo, secondo me, di quella che è la nostra capacità e desiderio umano di provarci, sperimentarci, conoscerci, sbagliare anche nel campo delle relazioni. Ci fermiamo ancora un istante, tra poco. Melog 800240024, siamo lasciati prendere dal filo della discussione, ma è affascinante, stiamo ragionando su una materia che ancora non c'è letteratura che l'abbia descritta. Abbiamo messo insieme due situazioni che sono state analizzate separatamente in questa fase, in questo momento di emergenza virus, è venuto fuori che in realtà intacca molto anche il nostro equilibrio personale, il nostro equilibrio privato, il fatto che da una parte c'è il grande bisogno desiderio di controllo, dall'altra parte c'è il grande bisogno desiderio di perdita del controllo e lasciarsi andare comunque in quello che una volta era il necessario equilibratore della nostra vita individuale e sociale. E come affrontiamo la fase B, forti di tutto questo? Sentiamo Gabriella, provincia da Trieste. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. No, guardi, allora io sono assolutamente d'accordo su tutte le norme precauzionali da prendere, anche se non c'è assolutamente chiarezza, secondo me, né sulla distanza da tenere, né sull'uso delle mascherine, e si vedono cose veramente raccapriccianti. Io però volevo cogliere l'occasione per dire che questa è una situazione che dovrebbe farci ricordare quelle che sono le normali norme igieniche, e le do una informazione. Io ho lavorato in ospedale per 42 anni, sono in pensione adesso, e durante gli accreditamenti anche volontari, uno dei problemi maggiori è stato proprio quello del corretto lavaggio mani degli operatori sanitari. Quindi questa la dice lunga sul fatto che non abbiamo sufficiente attenzione mai. In questo momento sì, però Gabriella, il tema in questo momento, questo è interessante, giusto, e non è mai troppo ribadirlo, ma quando ci saremo tutti lavati bene le mani, avremo tutti messo delle belle mascherine e ci saremo tutti controllati la temperatura e via dicendo, e continuiamo a restare tutti, ognuno chiuso a casa propria, a un certo punto quello che oggi abbiamo in qualche maniera allucinato nei nostri pensieri, avremo bisogno comunque di avere contatto con altre persone. Quindi la fase B dovrà anche tenere conto che tutte le misure di sicurezza in questo momento messe a punto per accentuare il distanziamento fisico in qualche maniera devono avere un'area di deroga circoscritta, controllata, osservata, sanificata, in cui le persone devono in qualche modo esaudire il loro lecito desiderio anche di incontrarsi, di abbracciarsi, di vedersi. Oggi sembra un cascame sentimentalistico di una umanità che non tiene conto dell'emergenza. Un domani diventerà un'emergenza anche questo. Questo stiamo cercando di capire. Guido da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo parlare dell'app che eventualmente ci traccerà per sapere se siamo positivi o negativi al Covid. La mia prima osservazione è che gradirei che questa app non è che l'app non ci dice se siamo positivi o negativi, positivi e negativi ce lo dice il test. L'app ci segna in quanto positivi e negativi eventualmente. Esatto, però l'importante è che questa app non si trovi negli store di Google o di Apple, ma che sia un'app libera. Cioè dove io vado al nel sito del Ministero dell'Interno, nel sito del Ministero della Salute, e liberamente io la scarico e la installo sul mio cellulare, in quanto io non ho un account Google, non ho un account Apple e il mio telefonino è un telefonino libero, open. E quindi non voglio assolutamente che i miei dati poi possano essere tracciati da queste due grandi aziende. Cioè le dice, questa app deve avere diciamo delle caratteristiche di sicurezza, non essere condivisa negli store tradizionali, che poi sono due, perché sappiamo benissimo che poi ogni app si porta dietro una coda di porte aperte che fa parte diciamo del gioco. Ce ne siamo mai tanto preoccupati, ma in questo caso è in gioco anche diciamo la nostra privatezza sanitaria. Andrea Rossetti, su questa ultima domanda. Sì, non so che telefono abbia l'ascoltatore, immagino un telefono Linux che comunque è chiaramente minoritario, perché se ha un Android è l'uno per mille che c'è, sì. Esatto, è un po' il problema è questo qui. È una simpatico e divertente smanettone di open source, però non è che tutti hanno questa possibilità. Esatto. Comunque una delle caratteristiche che hanno molte delle app, se non tutte proposte, è quella di crittografare i dati. Quindi anche se i dati dovessero transitare attraverso appunto Google piuttosto che Apple, in teoria non dovrebbero essere visibili, insomma non dovrebbero essere comunque percepibili, diciamo così, per i sistemi. Però in linea di principio mi sembra che quello che dice l'ascoltatore ha una sua correttezza, dice non puoi andare nel grande mucchio delle app che poi alla fine ti vendono sotto banco qualunque cosa tu gli possa dare senza manco saperlo. No, è chiaro, è importante anche ad esempio che l'app venga compilata da un'istituzione, perché in realtà anche se il codice sorgente fosse aperto e corretto, si possono infilare delle backdoor, dei modi per entrare anche a livello di compilazione, quindi è importante anche che la compilazione di quest'app, cioè l'app poi usabile dai nostri cellulari, venga prodotta effettivamente dall'istituzione in maniera da averne effettivamente il controllo, perché c'è molto interesse per questi dati. Certo, mi viene qualche brivido pensando ai server dell'INPS, pensando a tutte le grandi progetti istituzionali sulla digitalizzazione del paese, che ancora non abbiamo nemmeno il diritto ad avere una connessione uguale in tutta Italia di potenza. Nessuno si è posto il problema che gli italiani, oltre l'acqua corrente, oltre la corrente elettrica, oltre le fognature, dovessero avere anche la connessione a casa. Oggi nessuno ci ha mai pensato, adesso tutti corrono al riparo. No, c'è stato qualche anno fa, se ti ricordi, questo movimento che chiedeva addirittura di inserire la connettività tra i diritti costituzionali, un po' insensato perché probabilmente non sottolineava il diritto all'informazione. Indubbiamente per oggi il digital divide consiste proprio in questo, nel fatto che ricordo litigate in riunioni di condominio quando bisognava fare una canaletta per farci passare il cavi libera della televisione. Ho detto mettiamoci anche la rete, tutti ma che serve, ognuno ce l'ha per conto suo. Oggi starebbero lì tutti con la lingua di fuori e dire sì, dateci la rete, fateci vedere qualcosa, fateci collegare. Stanno tutti col telefonino davanti alla finestra a vedere dove c'è campo. Esatto, perché purtroppo l'infrastruttura fisica di fibra, insomma di cavi, è effettivamente in molti casi meno efficiente rispetto ai cellulari con il 4G, questo purtroppo è vero. Quindi pare che regga è la rete fino adesso, perché ormai è bene o male un mese che andiamo avanti così, quindi pare che l'infrastruttura nel suo complesso continui a funzionare e a reggere abbastanza bene, però appunto non siamo sicuramente messi, non siamo nelle stesse condizioni di altri paesi. I dati che ha dato l'Istat, che ho sentito solo al volo nei nostri giornali radio, non mi pare che gli italiani poi siano molto dotati di strumenti casalinghi per connettersi a parte il telefono, sono dati che mi hanno un po' spaventato. No, esatto. Esatto, perché ormai il 22% ha un computer e un tablet in casa. Quindi... Esatto, perché quello che noi abbiamo visto è che i nostri studenti, ad esempio la Bicocca, per il 70% accedono ai servizi forniti dalla Bicocca tramite smartphone, perché lo smartphone è il sistema attraverso cui le persone accedono alla rete fondamentalmente, quindi molti sistemi devono essere pensati per questo tipo di accesso, in cui ho uno schermo piccolino, ho difficoltà a vedere. Ma noi siamo illusi, secondo me, Andrea, che ci fosse stata un'improvvisa... un preso superamento del digital divide, ma semplicemente la gente ha più smartphone, lo smartphone esatto. È l'accesso degli stupidi, che ci sono le app, non deve fare nessun tipo, ma esatto. Al momento in cui sarebbe necessario uno strumento diverso, un desktop che faccia anche altre funzioni oltre quelle di scorrere con le app, ci troviamo veramente il 22% soltanto ce l'ha a casa. Ma io vedo tanti colleghi che cascano improvvisamente, ma io non c'avevo la connessione a casa, non c'avevo un computer, quello che mi ha dato l'azienda è di vecchia generazione. Sentiamo Elisabetta, Provincia di Genova, Elisabetta. Ma soprattutto Veneta. Sì, va bene, dunque, sono questo. D'accordissimo con quello che ho sentito ora, perché io ho, per dire, un amico che sta in Liguria, anche lui, da solo, lui a stento sa usare lo smartphone, ok? Ecco, per dire. Personalmente, no, il dato io esatto non so... che il 33,8% delle famiglie non ha un esatto, computer sentito, un tablet in casa. Ho sentito Radio 24 di stamattina. 47,2 ne ha uno e il 18 ne ha due. Esattamente. Io che ce ne ho 4 sono fuori di regola. Sì, però io sono abituata, voglio dire, però non basta l'app di dove vai, dove non vai. Io sostengo assolutamente la necessità di fare un tampone a chi anche non sa di averla avuto, ok? Perché io da questo mio amico che sta a San Michele di Pagana, ha 85 anni, mi chiama tutte le sere alle 2 di notte perché è spaventato da tutti gli allarmi che sente tutti i momenti sui telegiornali. Anche quella c'è una cosa, una riflessione da fare, perché basterebbe un comunicato una volta al giorno, senza 3.000 persone che sono tuttologi improvvisati, che dicono di tutto e il contrario di tutto. Elisabetta, però anche noi dobbiamo ogni giorno fare il nostro mestiere. Gli strumenti che abbiamo a disposizione è sentire le persone... che abbiamo l'impressione, l'idea che ne sappiano più di noi. Mi rendo conto, sto facendo battaglie individuali anch'io per cercare di trovare degli spazi, delle persone, degli interlocutori, insomma quelli già consunti da l'iperuso che ne stanno facendo gli altri. Facciamo quello che possiamo anche noi. Anche per oggi abbiamo finito. Alla prossima.